Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono ancora Alessandra Fiori e qui con me c'è sempre lui. Ciao, sono Franco Schipani, ciao Ale. Ciao Franchi. Allora, sei pronta per questo 1999? Franchi, siamo alla fine degli anni 90. Wow. 1999. Te la ricordi la paura del nuovo secolo? Sì, tutti dicevano sta finendo il mondo, Nostradamus. La profezia cos'era? Maya. Sì, sì, Maya. Che verso gli ultimi mesi dell'anno inizia una vera e propria psicosi per la fine del Novecento e l'inizio del nuovo millennio. Ti ricordi si riparlava del millennium bug? Me lo ricordo. Un difetto informatico che ci avrebbe mandato in tilt tutti i computer alla mezzanotte del 31 dicembre del 99. Ma tu dov'eri, Franco, a Capodanno? Mia chiara, io ero a Times Square, New York City, insieme agli amici che gozzovigliavamo. Sei molto sempre cool. Io invece ero a Rometta, come sempre. Però mi ricordo, Roma era meravigliosa anche perché abbiamo visto la diretta da lì. Ah, sì? Abbiamo visto la diretta e tutti, ovvio che noi eravamo lì 6 ore prima, vediamo che succede in Italia, il delirio. E a proposito del 6 ore prima, io mi ricordo benissimo la moda un po' costosa che era quella di fare il Capodanno sì, in sì, due sì. posti diversi, un po' costosa però spostandosi in aereo. O avevi un mille miglia di fuoco oppure... Capito? Sì, perché certo. Sfrutti il jet lag. Così posso dire, ho fatto Capodanno del 2000 a Rio de Janeiro, Australia, Malaysia, Osaka, Hawaii e a Velletri. Per me è un incubo comunque, perché per me un Capodanno basta, è avanza. Più che sufficiente. Siamo d'accordo. Franchi, 99, New York, io Roma, ma cosa ascoltavamo? Beh, nel 1999 in Italia questa era la canzone più ascoltata. C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora. E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni. Beccati questo terzetto, Liga, Giova e Pelù. Wow. Il mio nome è Mai Più. Ecco, questo brano è stato così, in qualche modo, come dire, stimolato, sì. Possiamo dire, dalla guerra che c'era in quel momento nella ex Jugoslavia, in particolare l'intervento militare nel Kosovo. Ecco, ha stimolato appunto la creazione di questo brano inedito. Infatti, Franchi, il 24 marzo del 1999, l'allora presidente americano Bill Clinton annuncia proprio l'intervento in Kosovo. My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We have acted with resolve for several reasons. Dopo il fallimento delle trattative e dei negoziati per convincere il presidente serbo Milosevic a porre fine alla pulizia etnica in Kosovo e alla repressione della popolazione di etnia albanese, la NATO decide di intervenire e per 78 giorni raid aerei colpiscono obiettivi militari ma anche civili in Serbia e in Kosovo, appunto. Crollano case, scuole, ospedali, edifici pubblici e anche l'Italia appoggia l'intervento militare. Da Aviano e dalle altre basi NATO del nostro paese partono i cacciabombardieri. Il governo D'Alema, infatti, autorizza l'utilizzo dello spazio aereo. Io sono partecipe dell'angoscia di queste ore, senza dubbio, ma credo che non sia giusto dimenticare che l'angoscia comincia con il massacro di Vukovar, con le fosse comuni, con gli stupri etnici, molto prima dell'intervento militare della NATO. I raid aerei durano fino al 10 giugno del 99, quando vengono firmati gli accordi e Milosevic accetta di ritirare le sue truppe dal Kosovo. Ma questa regione resta un'area ad altissima tensione. Strong enough, abbastanza forte. Abbastanza. Di Cher. Lei è fortissima. Lei è fortissima, infatti. In questo anno diventa ufficialmente, dopo Judy Garland, Cher diventa la nuova icona gay d'America. Ah sì? E quali sono invece da noi le icone in generale? Beh, non lo so, mi hai trovato completamente impreparato, perché io da quella parte dell'oceano non leggevo i giornali scandalistici italiani, sai, quelli patinati, niente gossip. Però... quindi ne sono completamente all'oscuro. Comunque nel 1999 c'è un break definitivo tra il vecchio e il nuovo, possiamo dire che veramente è un momento di passaggio molto importante per la musica. Sarà perché c'era tutto questo nuovo entusiasmo. Beh, in Italia principalmente lui. Che lingua parli tu? Se dico vita, dimmi cosa intendi. E come vivi tu? Se dico forza, attacchi o ti difendi. T'ho detto amore e tu m'hai messo in gabbia. Ma hai scritto sempre male, hai scritto sulla sabbia. T'ho detto eccomi e volevi cambiarmi. T'ho detto basta e mi hai detto non lasciarmi. Abbiamo fatto l'amore, mi hai detto ah mi dispiace. Mi hai lanciato una scarpa col tacco e poi abbiamo fatto pace. Abbiamo rifatto l'amore e ti è piaciuto un sacco. E questo è un raggio di sole di Jovanotti. Però lui già c'era. Assolutamente. Lui già c'era. Però esisteva. Abemus Jovanotti. Adesso non più rockstar internazionali a riempire gli stadi, no, vero? No, già cominciano. Hanno già iniziato da un paio d'anni. Comunque gli italiani vanno fortissimi. Infatti passano dai teatri, dai club, dalle feste di piazza, eccetera. Arrivano negli stadi. C'è Jovanotti, ovviamente, c'è Vasco, ma soprattutto lui. Una vita da mediano a recuperar palloni, tanto senza piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. Una vita da mediano, il Liga. Ma comunque, questa secondo te è un po' un'ode alla, appunto, al mediano? Al mediano, sì, è una, come ti posso dire, un volo pindarico, si può dire? Ma bravo! Si può dire, perché parlando di un mediano, descrive un po' quella che ci sono alcune delle figure nella nostra società che fanno il lavoro da mediano, quello che soffre, che porta i palloni agli altri. Esatto, quello che non che è difende. Sinonimo di mediocre. No, perché poi un mediano te lo ricordi magari nel calcio, ma te ne ricordi uno o due, invece gli attaccanti, quelli che fanno i gol, se li ricordano tutti, dai. Comunque, per finire di commentare gli stadi, devo dire che è vero che si sbiglia di più, è vero che c'è sempre più gente, però è anche vero che secondo me un certo tipo di artisti perdono il loro valore sul palco, perché li vedi da lontano, anche se ci sono questi grandi mega schermi, però alla fine diciamo che quando va via ti rimane poco. Io ricordo a New York, quando ho visto per la prima volta Al Pacino in un teatro di 40 persone al Circle on the Square a Bridge Street, che faceva American Buffalo. Non mi dire che ti ha deluso. No, era fortissimo, però ho detto io ho bisogno di venire in questi piccoli posti perché devo sentire il contatto con la gente. Mi devo rigenerare come attore. Anche gli stessi Rolling Stones, prima dei grandi gruppi, facevano delle piccole apparizioni a sorpresa in piccoli club per provare ancora quello che era l'emozione proprio di stare davanti alla gente e di comunicare con quello che sta davanti lì in prima fila, invece che in piccionaia allo Stadio Olimpico sulla curva nord. Capito? Ho capito, hai fatto una bellissima tirata sugli stadi. Vuoi che ti rialzi un po' questa? Chiediamo a Chiappini. Chiappini, se la puoi rialzare un pochino? Anni di fatiche, botte, vinci caso mai mondiali, qui sempre qui nel mezzo, finché c'è nostro questo qui, sempre qui nel mezzo, finché c'è nostro. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Siamo nel 1999, io sono ancora Alessandra Fiori e qui con me c'è ancora lui, Franco Schipani. Ciao a tutti. Franchi, lungo tutti gli anni 90 noi abbiamo seguito il percorso di nascita della moneta unica e quest'anno, nel 99, nasce l'euro. Perché dopo aver fissato i tassi di cambio nel 98, lo abbiamo raccontato, nel 99 l'euro diventa la valuta unica per oltre 300 milioni di cittadini europei. Per i primi 3 anni è solo una moneta utilizzata per fini contabili. Poi, il 1 gennaio del 2002, il contante entra in circolazione. Ma intanto però viene fissato il cambio. In Italia un euro vale 1.936,27 lire. Le borse di tutta Europa festeggiano la nascita della moneta unica. Piazza Affari pensa che guadagna il 6%. E per gli europeisti è l'avverarsi di un grandissimo sogno che è durato più di un secolo. E a marzo uno dei protagonisti di questo percorso verso la nascita di un'Europa unita, Romano Prodi, viene eletto presidente della Commissione europea. Un incarico con due precisi obiettivi. Nella primavera del 1999, quando vengo chiamato all'unanimità al ruolo di Presidente della Commissione europea, l'incarico è quello proprio di ricostruire una strategia chiara per lo sviluppo delle istituzioni europee, cominciando dalla riforma della Commissione, cioè dell'organo principale di governo europeo, e in secondo luogo una strategia per l'allargamento della Unione. Prodi resta in carica fino al 2004. Sempre quest'anno, nel 1999, a giugno, ci sono le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e l'Italia elegge 87 parlamentari. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Mambo number 5, non è Chanel number 5. No, me lo ricordo. Questo me lo ricordo, è Lubega, ecco, sì. Questo brano appunto, Lubega, che attenzione, non è originale perché è basato sull'omonimo brano registrato da Perez Prado nel 1952. Anche qui si ricicla. Comunque fu un enorme successo nel 1999, andò in classifica negli Stati Uniti, nel Regno Unito e anche in Australia. E comunque il singolo entrò nella top 10 di quasi tutte le classifiche europee. Ma sai, Franchi, che non ho capito una cosa? Ci torno. Tu mi parlavi della quasi definitiva scomparsa dei nostri vecchi protagonisti della musica leggera italiana. Non mi hai convinto, rispiegami un po', dimmi un po'. Ma hai sentito prima, no? Cioè, sì, Giovanotti, Ligabue, sì, Vasco, sì, insomma, i nuovi che riempiono gli stadi, che vanno in classifica, che fanno tendenza. Ormai è quasi tutto loro. Però. Sentiamo questo brano. Questa è Anna Oxa con Senza Pietà, la canzone che vince il Festival di Sanremo del 1999. Vedi, non ci vanno Ligabue, Giovanotti, Vasco Rossi. In passato ci sono andati all'inizio della carriera, non tutti, però molti di loro, anche Zucchero, insomma. Però invece il Sanremo, come ogni anno, è una buona occasione per fare un po' il punto della situazione, vedere un po' quel termometro della musica italiana. E vince Anna Oxa, che comunque è andata al Festival di Sanremo molte volte, e quell'anno finalmente vince. Britti invece, giovanissimo, vince. Britti. È lui, leggendario cantante e soprattutto grandissimo chitarrista, vince nelle nuove proposte. Che poi quello, se non sbaglio, è stato il Festival di Fazio. Ecco, lo vedi che ci ricaschiamo. Me lo ricordo. Ci ricaschiamo, perché a un certo punto il Festival non è più il Festival. Esatto. Chi è che va a cantare? Canta lui, che bello, dove c'era il presentatore che diceva soltanto signore e signori, di Mike, buongiorno della situazione, ecco a voi, era con la valletta di turno. No, perché diventa il festival, comincia a diventare il festival di chi lo fa. Beh, ma anche prima il festival di Baudo. Ma sì, ma prima ancora, ma tu ti cioè, tu dici tu Baudo e Baudo. Troppo giovane, troppo giovane, non ti ricordi i primi festival? Io io li ricordo. Franky, comunque, mentre Fazio presenta il festival, dopo il settennato di Oscar Luigi Scalfaro, il 14 maggio viene eletto il 10° presidente della Repubblica del nostro paese. Ciao. Sarò fedele ai valori di libertà, di giustizia, di democrazia, che sono il fondamento della Costituzione repubblicana. Viva la Repubblica Italiana, viva l'Unione Europea, viva l'Italia. Naturalmente è Carlo Azeglio Ciampi, livornese di nascita, europeista convinto. Ciampi viene eletto al primo scrutinio. È quello che si definisce un tecnico, un uomo delle istituzioni, governatore della Banca d'Italia, presidente del Consiglio, ministro dell'Economia e poi, appunto, presidente della Repubblica. Chiara come un bel sole d'inverno, trasparente stella all'indomine, succhia questo bellissimo giorno. Tutte quante insieme le mie paure. You make me feel, yeah. You make me feel, oh, oh. You make me feel, you make me feel, oh, oh. Dolce cara domenica, dai tuoi solai io sento le campane sulla scia di un'elica. Ricordi di sé che fossi erane. You make me feel, you make me feel. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamo la nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Good Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Mix 24. Musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storie. Io sono Alessandra Fiori, qui c'è Franky Schipani. Ciao a tutti, rieccoci. Nel 1999, Franky. Stiamo ascoltando Zucchero con You Make Me Feel. E con quel brano Zucchero va al Festival Bar nel 1999. Festival Bar che ormai, come si sa, la serata finale vista molto in televisione è alla leggendaria Arena di Verona, venne condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi. Il vincitore assoluto di quell'edizione fu Giovanotti, hai visto? Esatto, sì, me l'hai detto. Lorenzo Giovanotti, però anche Alex Britti fa la sua bella figura, c'è Biagio Antonacci, Gianna Lubega che abbiamo visto, re delle discoteche, e appunto Zucchero che in questa occasione si vede consegnare, io non so come se li portate a casa, 10 dischi di platino. 10. Immagina Zucchero con 10 dischi di platino che c'è torna di peggio a casa. Da portare. Guarda quanti dischi ho venduti, perché ognuno di questo certifica 1 miliardo di copie. E insomma, secondo me, perché poi è stato veramente il fenomeno dell'anno. Poi Zucchero, visto, canta anche in inglese, cominciava anche ad andare fuori, sì. Però ti sorprenderò, Franky, perché al Festival Bar quell'anno c'è anche lei. E questa è la Laura Pausini, sai che mi piace tanto, la messa brava, sono contento, la mia risposta. A me Laura Pausini però piace di più quanto canta in spagnolo. Ah sì? Sì. Davvero? Molto di più. Ho capito. Comunque in questo 1999, poco prima del Festival Bar, il 20 maggio, un giovedì era, alle 8:30 circa, in via Salaria a Roma, viene ucciso Massimo D'Antona. La mattina del 20 maggio, guardando in basso, vidi che la strada era stata bloccata da ambedue i lati. Io nel vedere quello spiegamento di forze dissi che forse non era un semplice omicidio, ma che probabilmente si trattava di un attentato. Certo non pensavo che potesse riguardare mio marito. Ma da lì a pochi istanti sentii suonare il citofono. E la voce tremante del mio portiere che mi disse esattamente queste parole: signora, stanno cercando di lei, c'è la polizia, stanno chiedendo di suo marito. Immediatamente capii. Abbiamo sentito la testimonianza di Olga D'Antona, moglie di Massimo, 51 anni. D'Antona era un giurista, docente universitario di diritto del lavoro a Roma, ma era soprattutto un consulente del ministro del lavoro, Antonio Bassolino. Massimo era un intellettuale, ma soprattutto era un lavoratore, tenace, infaticabile. Attraverso la consultazione delle parti sociali, lui cercava soluzioni possibili, concrete, realizzabili, tenendo conto di tutta la complessità sociale del nostro paese. Per questo lo hanno ucciso. Un omicidio apparentemente, almeno inizialmente, inspiegabile, ma poche ore dopo l'omicidio arriva la rivendicazione. Sono 14 pagine con la stella a 5 punte e il linguaggio delle nuove Brigate Rosse. La nostra organizzazione ha individuato il ruolo politico-operativo svolto da Massimo D'Antona. Ne ha identificato la centralità e, in riferimento al legame tra nodi centrali dello scontro e rapporti di forza e politici tra le classi, ha rilanciato l'offensiva combattente. Per l'omicidio di D'Antona sono stati condannati all'ergastolo Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma. E ancora a Roma, nel 1999, scompaiono due politici che hanno fatto la storia della Prima Repubblica. Sono Amintore Fanfani e Nilde Iotti. Fanfani muore il 20 novembre, ex presidente del Consiglio, segretario della Democrazia Cristiana, è uno dei politici più influenti della Prima Repubblica. Mentre il 4 dicembre scompare Nilde Iotti, membro della Costituente e primo presidente della Camera Donna del nostro paese. Ma Franco, il 1999 è anche l'anno in cui, con l'apertura della Porta Santa, Giovanni Paolo II dà inizio al Giubileo. Et porta Domini. Adesso dalla Porta Santa mi trovo costretto quasi dimmi. A portarti in terra americana. Questo è Smooth Santana e Rob Thomas. Come vedi, i giovani e quelli un po' più anziani, ma quelli bravi. Il giovane certe è Santana. Volte... Brava, vero? Grazie. Prego, certe volte riescono a mettersi d'accordo e a fare delle belle cose, perché poi sai, la musica li unisce e comunque si divertono. Comunque questo brano è andato in classifica un po' in tutto il mondo. Grande successo. Come è un grande successo anche questo brano che è partito dalle classifiche americane ed è arrivato anche da noi. Questa è Baby One More Time di Britney Spears, che è la regina di 1999 un po' in tutto il mondo. Purtroppo ormai la musica non soltanto si deve ascoltare, ma si deve vedere. Quindi se non sei su MTV e su VH1 in America non fai successo. E in America, Franco, proprio il 20 aprile del 1999 si consuma una tragedia. Eric Harris e Dylan Klebold, due studenti della Columbine High School, una superiore del distretto del Columbine vicino Denver in Colorado, entrano nella loro scuola armati e sparano su compagni e insegnanti. Muoiono 12 studenti e un insegnante e il numero dei feriti arriva a 24. So che avremo dei seguaci, perché siamo come dei. Non siamo semplici esseri umani. Fisicamente siamo umani, ma siamo più evoluti del resto dell'umanità schifosa. Noi siamo davvero autocoscienti. Vi odio perché mi avete escluso da qualsiasi cosa divertente. E non venite a dirmi che è colpa mia, perché non è vero. Avevate il mio numero di telefono e sapevate che volevo partecipare. Ma no, non chiamate Eric lo strano. Ci avete trattato come merde per anni. Ora ve la faremo pagare cara. E non ce ne frega un cazzo. Non ce ne frega un cazzo, perché tanto moriremo. Questa è la ricostruzione dei deliri dei due studenti, autori della strage, che dopo essersi barricati all'interno dell'istituto, si uccideranno. L'episodio naturalmente suscita in America enormi polemiche sul tema della sicurezza nelle scuole e soprattutto sulla facilità dell'acquisto delle armi. Una strage, quella di Columbine, che sarà raccontata al cinema con Bowling a Columbine di Michael Moore del 2002 ed Elephant del 2003 di Gus Van Sant. E intanto in America, alla fine di novembre, durante il summit dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in corso a Seattle, nasce un movimento che entra nella storia. Sono i No Global e sono chiamati anche infatti il popolo di Seattle. That don't impress me much. So yeah. Me much. Yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve. Triplo salto mortale per Shania Twain dalla country music. Triplo. Davanti e indietro. Con That Doesn't Impress Me Much, appunto, dalla country music alla disco music. Ah, faceva country? Mi piace. Sì, con cappellone, i capelli, stivali, tutto. Stupendo. Cioè, tutto, era lei. Era lei, però ha detto, ma cerchiamo di allargare il pubblico. Cioè, è riuscita con questo brano veramente di successo. Altro brano di successo, questa volta, bah, ci penso nei latini. Lo so. Non lo sai. Lo vedo che storci un po' il naso. No, ma tutti qui. La regia è indignata. Va bene, però noi per dovere di rigore storico dobbiamo farlo sentire, perché questa Living la Vida Loca di Ricky Martin è stato uno dei grandi successi del 1999 e non soltanto in Italia. Eh no, perché siamo in America Latina e io ti ci faccio rimanere, perché il 2 febbraio in Venezuela viene eletto il nuovo presidente Hugo Chavez. Resterà in carica praticamente fino alla sua morte nel 2013, ma anche un altro protagonista della politica dei prossimi anni diventa presidente in quest'anno ed è Vladimir Putin, che prende il posto di Boris Yeltsin e il 31 dicembre tiene il suo primo discorso da presidente. Дорогие друзья, сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями, собирался... Franco, mi aspettavo da te la traduzione simultanea. Vedo che non arriva, quindi vado avanti. Guarda, quel lunedì che spiegano il russo io non c'ero quel lunedì, no. Però guarda, ti vorrei dire che non sarà una notizia eclatante, ma in questo 99 entra in vigore il regolamento per l'autocertificazione, ovvero mai più file per chiedere certificati continui alla pubblica amministrazione, perché si possono produrre appunto autocertificando. E poi parte anche la riforma del commercio, ovvero i negozi non sono più soggetti a orari imposti, ma possono scegliere un orario libero di apertura che va dalle 7 alle 22. Insomma, è la rivoluzione dello shopping. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the dove l'amore, dove l'amore, I cannot tell you of my love, here is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling so strong. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. Era Manu Chao con Bongo Bong e Dove l'amore c'era. Guarda, il primo mi piaceva molto, lo ricordo bene. Il secondo incontra la disapprovazione del maestro Chiappini, quindi ti consiglio di stare attento. Oh, ma la prossima volta mi devo consultarmi. Ok, scusa Alessandro, scusa, non succederà più. Adesso ti facciamo sentire anche noi una canzone. Nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte che ammazza. E brava Ale, brava, grazie. Brava per questo Dolce Nera, che è un pezzo dell'ultimo album registrato in studio da Fabrizio De André, perché nel 1999 si apre male l'anno, si apre male perché so. De André non c'è più. Questo cantautore, poeta, intellettuale, aveva solo 59 anni, resta uno dei grandi protagonisti della musica italiana di sempre. Il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. E l'8 giugno scompare anche uno dei padri fondatori della televisione italiana. È Corrado Mantoni. Per tutti, Corrado. Ecco, che strumento suona? Io faccio le pernacce sotto il braccio. Fa le pernacce sotto il braccio? Non mi è mai capitato di accompagnare un simile solista. Sì. Ecco, allora, per me... Veramente, ecco, no. Posso controllare? No, un momento, la tonalità... tonalità. Si è... Franco, indimenticabile corrida di Corrado. Come indimenticabile per il cinema italiano è la serata del 21 marzo 1999. And the Oscar goes to Roberto! Sofia Loren. Momento incredibile, emozionante. Pazzesco. Roberto Benigni vince 3 Oscar per La vita è bella, e dopo l'urlo di Sofia Loren Benigni saluta e salta sulle poltrone del teatro, fa un discorso in cui cita Dante, ricorda i morti dell'olocausto, ringrazia i genitori, insomma fa un grandissimo show, ed è, pensa Benigni, il primo attore non anglosassone a vincere la statuetta del miglior attore protagonista. E devi sapere che negli Stati Uniti, quando c'è il Super Bowl, ci sono gli Oscar o altre mezze del genere, ci si riunisce in casa, si mangia qualcosa, si fanno le schedine, mettono dei soldi, cioè a chi vince il Super Bowl, di avevi quanti puntato punti? Giusto? Io ho puntato su Benigni, me lo davano perdente 4-1. Ah sì? 4-1, beh, quella è stata una serata indimenticabile. Grande soddisfazione. La gioia di Roberto, e alla fine tutti questi americani, quando hanno sentito Sofia Loren, faceva Roberto, oh my god, he won, ha vinto, ho detto yes, he won. Ma senti cos'altro esce nelle sale nel 99. Allora, Il Sesto Senso, Matrix, Fight Club, Star Wars con l'episodio 1, Notting Hill, Magnolia, tutto Magnolia, mamma mia, la pioggia di rane, un momento di una bellezza, tutto su mia madre, American Beauty. Però due film in particolare fanno molto parlare pubblico e critica. Il primo è questo. È tutta mia la colpa se ora siamo qui, affamati, infreddoliti e inseguiti. Vi voglio bene, mamma. È The Blair Witch Project, che è un film di due esordienti. Che paura! Ti ricordi? Che girano, pensa, fingendo che sia un documentario, con riprese artigianali, spacciandolo per vero. La storia ruota intorno a 3 ragazzi che, alla ricerca del segreto della strega di Blair, si perdono nei boschi. Ma il colpo di genio del film è proprio nell'operazione di marketing che lo lancia, presentandolo come un fatto realmente accaduto. Te lo ricordi tu? Lo ricordo perché mio figlio era un teenager, lo vedeva però con un occhio chiuso, una aperta, voleva vederlo ma non vederlo, sai quelle cose? Io credo non l'avevo visto subito. Faceva un po' effetto. Comunque Franco, un altro film grandissimo che esce quell'anno è il film di Kubrick, ed è Eyes Wide Shut, con una coppia vera che recita insieme nel ruolo di una coppia. Sono Nicole Kidman e Tom Cruise, che allora erano sposati, e diciamo che questo film non gli ha portato bene, assolutamente. No. Sullo schermo comunque Tom Cruise è un medico e Nicole Kidman è sua moglie. Tutto ha inizio quando, dopo aver partecipato a una festa e bevuto un po' troppo, lei fa una confessione a suo marito. Ricordi l'estate scorsa quando eravamo a Cape Cod? Sì. Ti ricordi una sera in sala da pranzo c'era un giovane ufficiale di marina seduto al tavolo vicino al nostro insieme ad altri due ufficiali? No. E un cameriere gli portò un biglietto. Lui lo lesse e andò via. Niente? Non ti ricordi niente? No. Bene. Bene, insomma, rivela un tradimento solo mentale, ma l'ammissione turba così tanto il marito che inizia un viaggio nella coscienza e non solo, che culmina nella famosa scena dell'orgia. Insomma, la realtà si confonde con la finzione e la leggenda, pensa, vuole che la crisi tra la Kidman e Cruise sia nata proprio mentre giravano queste scene. Would you go to bed with me? Would you go to bed with me? Vuoi andare a letto con me? Ah no, Frankie, non mi aspettavo anche questo. No, ma questo è stato un brano altro, geniale. Cioè, senti, questo è l'unica frase, cioè, è un tormentone. Dice solo quello? Grande, grande successo, grande successo. Frankie, ma è tutto per questo 99 o hai un'altra chicca? Ma io voglio farti sentire un brano che magari non c'entra nulla con quell'anno, però magari sì. È il 1982 quando Prince comincia a divertirsi come se fosse il 1999, quindi siccome stiamo parlando del 99 è giusto, anche se non c'entra insomma, niente, hai avuto una scusa per tornare indietro negli anni che ti piacevano veramente. Torniamo quando la musica... Anch'io una chicca, Frankie. Dimmi, te la dico? Perché l'ho lasciata in fondo, perché è una cosa che ci interessa, che ci riguarda un po' particolarmente. Sì. Perché il 4 ottobre a Milano nasce qualcosa. Vuoi sapere cosa? Radio 24! Bravo! La prima emittente privata News and Talk del nostro paese. E come sempre però adesso, Frankie, chiudiamo con la canzone scelta dalla nostra adorata Antonella Migliaccio. Nel 1999 esce l'album di maggior successo di un gruppo molto anni 90, ma che poi è anche molto anni 2000. È un gruppo fantastico a dir poco. L'album è Californication. Loro naturalmente sono i Red Hot Chili Peppers. Pensa, vendono 15 milioni di copie in tutto il mondo. Antonella ha scelto per noi Other Side. Vedo che però piace anche alla Caracciolo. Piace e anche a tutti, vedi, tutti guarda, anche Chiappini. Non credo abbia il vinile. Quindi ciao da Alessandra Fiori. Ciao da Franco Schipani. Appuntamento nel nuovo millennio. La settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao. How long will I slide? Separate my side. I don't believe it's been slid.